Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E dal rientro del GR di Radio Popolare per questo inizio settimana, lunedì 22 gennaio, ho un last minute. È un last minute che anticipa decisamente in maniera importante, perché l'appuntamento sarà giovedì 25 gennaio. Dams Lab, piazzetta Pierpaolo Pasolini, l'organizzazione Dalla Soffitta. Con noi ritroviamo Simone Azzu, al quale do il buongiorno. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti. Ci siamo conosciuti per quanto riguarda la biblioteca Torgheir in parallelo al teatro ridotto. Qui abbiamo un altro personaggio che ha assonanza norvegese, come a chi è stata intitolata la biblioteca. È un caso oppure c'è una ricerca particolare sulla cultura e su esponenti molto importanti, magari da noi meno conosciuti, a riguardo questa località scandinava? Ah, è assolutamente un caso. Okay. Torgheir era affezionato a Renzo e alla biblioteca, invece qua a Petter è tutta un'altra storia. È un'altra storia, però ha a che fare con la letteratura anche in questo caso, se vogliamo, seppur d'emergenza, perché questo prigioniero politico in una Norvegia occupata, siamo al periodo dell'occupazione nazista, viene imprigionato e decide di tenere un diario. Ci puoi dire qualcosa di più a proposito di questa narrazione teatrale? Certo. Peter Moen è stato un resistente, un prigioniero politico, e si occupava delle stampe clandestine del London Nit, che era, diciamo, la rivista più importante durante la resistenza norvegese, e a un certo punto è stato arrestato nel 1944, quando ormai la guerra stava terminando, e aveva il divieto di scrittura e lettura. Ma con la carta igienica e un ferretto residuo dalle tendine gli è venuta l'idea di bucherellare la carta per delle lettere, poi delle frasi. Esatto. Certo. E infatti prima iniziava scrivendo appunto i primi bisogni, giusto per farsi compagnia, poi si è reso conto in realtà che funzionava e che riusciva a mantenere un appunto, e da qui questa storia incredibile. È una storia incredibile che dà un'importanza alla scrittura in qualsiasi modo e maniera, e quanto sia fondamentale anche in emergenza mantenerne una visione e un aspetto concreto. Ricordiamo lo stesso Ungaretti nella Prima Guerra Mondiale, che scriveva sui cerini queste brevi frasi che poi sono diventati dei capolavori assoluti. Qua è un aspetto completamente diverso, anche se le attinenze di scrittura ci sono. Che tipo di messaggi o di frasi erano? Non vogliamo anticipare nulla, però che scrittura portava Petter, il prigioniero politico? Ma inizialmente lui si lamentava molto del fatto di dover tradire i suoi compagni durante gli interrogatori, e questo gli faceva molto male. Molti messaggi poi erano riferiti alla moglie, che lui chiamava Bella come soprannome, e, insomma, anche lei era finita al carcere perché lo aiutava nelle stampe clandestine, e lui per questo si sentiva in colpa. Poi una parte che mi affascina tantissimo è la parte che riguarda, diciamo, la religione. Lui era un ateo convinto, e poi però da ateo convinto si domanda sull'esistenza di Dio in carcere, e si dice: beh, quasi quasi oggi provo a credere, vediamo come sto domani. La spiritualità che arriva. Esatto. E aggiungo anche un aspetto molto importante, che è quello legato alla musica, Simone. Sì, il mio collega Martino Corrias, musicista e compositore di musica elettronica incredibile, ha fatto un lavoro magnifico. Abbiamo immaginato gli spazi che Peter Moen viveva nella cella e poi nei vari spazi nazisti in cui è stato. E di tutti questi spazi prendevamo appunto degli elementi sonori che abbiamo interamente ricreato, e pian piano da questi questi elementi sonori nasce una vera e propria musica elettronica del tutto contemporanea, che ci riporta anche a delle deviazioni rave, del white noise abusato, che ci riporta quindi a un senso di fastidio, di disagio. Sì. Rispetto a questa situazione in carcere da prigioniero, sostanzialmente destinato alla morte. Sì, Peter, in Norvegia Peter c'è una grande tradizione di musica elettronica, fra l'altro, scusa se t'ho interrotto. C'è una grandissima tradizione di musica elettronica, pensa, siamo andati in Norvegia appunto sulle tracce di Peter Moen per lavorare con la videomaker Claudia Virdis per la insomma, sì, per il progetto video che ci sarà nello spettacolo, e lì ci siamo imbattuti moltissima musica elettronica, e devo dire che quando raccontavamo il progetto, quello che stavamo facendo, c'era grande entusiasmo attorno, questo fa piacere naturalmente. Quindi sarà giovedì 25 gennaio dalle 21 alle 22.30, il luogo è il Dams Lab, piazza sì. Pierpaolo Pasolini a Bologna, organizzazione La Soffitta. Ricordo che Simone Azzu collabora con il Teatro Ridotto, di cui abbiamo dato il programma la scorsa puntata in scena, e anche la gestione della biblioteca Torgeir per quanto riguarda questa unione fra teatro e letteratura. E anche in questo caso, a modo suo, il protagonista di Prigioniero Politico ha un aspetto estremamente, oltre che romantico, anche letterario. Io ti ringrazio tantissimo. Vogliamo aggiungere qualcosa? La collaborazione con Martino Corrias l'hai già citata. Viene chiesta una presenza entro le 20:40, visto che lo spettacolo inizia alle 21. Questo lo vogliamo dire al pubblico per motivi logistici di partecipazione allo spettacolo. Giusto? Dico bene? Sì, esatto. In realtà, a quanto so, i posti stanno veramente terminando, ci sarà forse una lista d'attesa, insomma, però appunto ci saranno delle prenotazioni, chi non si presenta entro le 20:40 poi si libereranno dei posti, quindi secondo me se ci si presenta un modo si trova. No, vi volevo ricordare l'importantissimo sostegno dell'Istituto Storico Parri, che veramente ci ha accompagnato in tutto questo processo dall'inizio, da prima che la drammaturgia nascesse, e quindi sì, sono assolutamente da sottolineare tra le collaborazioni. Io sì, ti ringrazio, esatto, tantissimo. Stiamo in contatto magari per altri motivi di incontro con teatro o letteratura, ricordando Peter Prigioniero Politico, giovedì 25 gennaio. Per prenotazioni, per avere delucidazioni, hai qualche indicazione da dare al nostro pubblico? Per le prenotazioni sul sito del Dams Lab. A posto, direi che abbiamo detto tutto. Io ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Grazie a te. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao. Bela Bartok, reinterpretato dai musicisti della ACT, una label svedese in questo caso. Restiamo in Finlandia anche con la... in Finlandia, in Scandinavia. Così ho portato tutto il Nord Europa presente in questo last minute. Peter Prigioniero Politico, grazie a Simone Azzu, che sarà sul palcoscenico del Dams Lab per quanto riguarda giovedì 25 gennaio. A breve con i Magazine, già in diretta con noi Sergio Fan, e la rassegna stampa culturale tratta dai principali allegati con gli inserti dei quotidiani usciti durante il weekend sarà subito dopo la pubblicità. A tra poco.